Smilog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È un confine molto labile quello tra la realtà e l'io interiore delle persone affette da autismo. Considerare l'autismo una patologia biologica e non più psicologica, ecco. Perché in passato si parlava di madre frigorifero, cioè di madre la cui assenza comunicativa creava la patologia. Il rumore del vento, l'imponente presenza del mare, gli odori della macchia mediterranea, il contatto con l'acqua, sono gli elementi principali dell'iniziativa La terapia del mare per l'autismo. Si parla di un bambino su 5.000 nel 1980, ad oggi, ultimo studio pubblicato nell'ottobre scorso, di un bambino su 100. E non è una statistica di uno studio qualsiasi, è una statistica che è stata ratificata anche dal CDC americano, che è il centro per lo studio epidemiologico delle malattie. Cioè lo studio è il centro governativo. Questa mattina mi sembra un po' d'essere la Madonna Pellegrina. Almeno due o tre programmi fra radio e televisione mi hanno chiamato a parlare di autismo. E devo dire, da quando ho fatto il mio pubblico coming out su mio figlio autistico, questo è il mio primo 2 aprile. Io non vorrei fare la fine di mio nonno, che aveva fatto 3 guerre, era mutilato e invalido di guerra. Il 4 novembre di tutti gli anni lui si metteva tutte le sue medaglie, andava a fare la sfilata con i suoi colleghi mutilati e invalidi. Gli eroi della guerra andavano e sfilavano un giorno all'anno. Il resto dell'anno rimetteva le medaglie nel cassetto, metteva la papallina e le pantofole e faceva il vecchio. Ecco, io non vorrei ridurmi a fare ogni 2 aprile il reduce padre dell'autismo. E poi per questo questa mattina, a cui tutti parlano di autismo, ho già visto grandi foto dei monumenti del mondo illuminati d'azzurro, è una bella cosa. Mi è stato anche detto: l'azzurro è il colore della tristezza. Lei prova tristezza per questa condizione? No, io non provo nessuna tristezza. Vorrei affrontarlo in maniera laica, in maniera scientifica, in maniera coerente. Vorrei aiutare a risolvere. Io so che molti genitori di bambini, di ragazzi autistici sono in ascolto, perché li vedo, perché mi scrivono, perché per molti c'è l'illusione che possa essere un punto di riferimento. Non sono un punto di riferimento, soltanto un'esperienza personale, però ho possibilità, per i privilegi che sono dati a una persona che fa il giornalista, a una radio che con grande generosità e grande attenzione, Radio 24, mi accompagna in questa opera di divulgazione e di puntualizzazione, voglio parlare di autismo. Il numero è 800240024, non faremo il panegirico sull'eroismo dei genitori, non ci stracceremo le vesti, e non ci piangeremo addosso, non faremo la questua, ma vorremmo soltanto spiegare quello che poco c'è di certo e di scientifico, quello che tanto c'è di incerto, di illusorio, di fantasmagorico e a volte anche di criminale nei confronti dell'autismo. Non ci si può più approfittare di famiglie che hanno un problema così gravoso in casa, e non si può più dare corpo a leggende che non hanno una base e un fondamento scientifico. 800 24 0024. Carlo Nau, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno anche a Luigi Mazzone. Buongiorno. Ricordo i miei ospiti, ho selezionato alcuni ospiti a cui do fiducia personale, credetemi, do fiducia perché avendo un problema in famiglia sono le persone a cui maggiormente faccio riferimento per avere io dei chiarimenti, quindi sulla mia pelle mi gioco gli ospiti questa mattina. Il professor Luigi Mazzone è un ricercatore del Bambin Gesù, si occupa di neuropsichiatria infantile. Carlo Nau, ma sentiremo anche altre persone, è un docente di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari all'Università di Modena e Reggio Emilia, membro del comitato scientifico dell'ANCSA, che è l'Associazione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici. Professor Carlo Nau, velocemente, sui numeri, viene data un'informazione corretta? Tutti diciamo in Italia 400.000 famiglie hanno il problema dell'autismo, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cose differenti e bisognerebbe quindi fare sempre un riferimento all'età della popolazione su cui sono state fatte queste indagini. Se io vado a fare un'indagine, come dovrebbero fare tutti i pediatri per tutti i bambini a 1 anno e mezzo di vita, per vedere con uno strumento semplice che è la chat, che non è uno strumento elettronico, è un'osservazione del pediatra e dei genitori messi assieme del bambino, una roba che dura 20 minuti, quindi una roba facile facile, troviamo all'incirca un bambino su 1.000 che ha problemi di autismo. Anche lì però bisogna vedere la differenza forte. Se io vado a 8 anni di età, il CDC di Atlanta, è stato detto adesso, ne trova addirittura più di 1 su 100. Quindi passare da 1 su 1.000 a 1 su 100 vuol dire moltiplicare per 10. E questo perché? Ma perché nei bambini piccoli le differenze autistiche si notano sicuramente molto meno che non nei bambini già grandi a 8 anni. Quindi già questo bisogna sempre fare un riferimento. Il dato che io porto è un dato riferito alla popolazione che ha tot anni. Ecco, tra i 3 e i 6 anni, per esempio, facendo delle indagini serie, se ne trovano 6 su 1000. Quindi 1 su 1000 a un anno e mezzo, 6 su 1000 tra i 3 e i 6 anni e più di 1 su 100, quindi tanti, no? Se io vado a 8 anni. E già questa è una motivazione per cui si sparano dei numeri diversi. E crescendo ancora? Poco crescono dopo, perché ci sono degli Asperger che fanno sempre parte dello spettro autistico, che vengono scoperti addirittura a 18 anni. Ecco. Però sono dei casi. Ecco, la cosa più importante è questa. Quindi l'età. La seconda cosa è mettersi d'accordo su che cos'è autistico, perché è chiaro che se queste non sono diagnosi che vengono fatte col microscopio, il bacillo di Koch c'è oppure non c'è, sono basate sull'osservazione, perché l'autismo non è una malattia, non è una patologia, è una sindrome, cioè un comportamento autistico che ha come base tante patologie diverse, tantissime fino adesso sono state trovate, tutte rare. Mentre l'autismo come sindrome, come espressione comportamentale, è, come abbiamo visto, molto frequente, perché 1 su 100 vuol dire che sono 600.000 persone in tutta Italia. Noi siamo 60 milioni, fate i conti, dividete per 160 milioni e salta fuori appunto 600.000. Però di questi, per fortuna, quelli veramente gravi, gravi, sono quelli che si scoprono all'inizio, perché le persone che hanno dei tratti, dei problemi di autismo che saltano fuori a 18 anni sono persone che comunque all'autosufficienza ci sono arrivate. Ecco, i bambini invece, quelli che a un anno e mezzo li troviamo in quelle condizioni, sono quelli più gravi, quelli sui quali bisogna immediatamente saltargli addosso, tra virgolette, per fargli quell'intervento, l'unico intervento che oggi si può dire che funziona, che è un trattamento educativo, precoce, quindi a un anno e mezzo, che è il momento in cui il bambino ha ancora il cervello plastico e quindi riceve, no? Di più, precoce, intensivo, 25 ore alla settimana di educazione speciale e strutturato. Ecco, la strutturazione che oggi ha dato maggiori risultati è quella che si basa fondamentalmente sull'analisi applicata del comportamento, la cosiddetta ABA in sigla. Allora, è un intervento abbastanza costoso, che ancora... Non è entrato, diciamo, nei parametri per cui questa mattina mi ha scritto una madre: sono una madre monoreddito, devo pagarmi l'ABA con i miei soldi. È sbagliato? È perfettamente sbagliato, perché però questo pubblico, tutti hanno questa percezione. Certo. No, ma cioè, è la verità, ma è sbagliata l'organizzazione che noi diamo al nostro sistema educativo. Noi siamo il paese nel mondo che dà più assistenti di tipo educativo, insegnanti di sostegno, assistenti alla autonomia e alla comunicazione, quindi sono tre figure, oltre che bidelli, diciamo, che vengono date a questi bambini, e noi diamo un esercito di questi operatori che però purtroppo non sanno cosa fare. Quindi bisogna fare la qualificazione di questi operatori. Riassumo velocemente sull'esperienza personale. Perfetto, c'è poca informazione. Quando ci si rivolge agli enti preposti c'è sempre molta poca capacità di essere aggiornati rispetto ai dati. L'impressione è che non è che non si spendano soldi, i soldi se ne spendono anche abbastanza, ma su persone che non ci servono. A me arrivano a casa gli operatori che manda al comune, bravissimi ragazzi a cui offro un caffè, ma non sanno da dove cominciare nel trattare un autistico quindicenne. Luigi Mazzone, parliamo dell'esperienza più diretta di un medico che tutti i giorni ha a che fare con famiglie che soffrono di questa patologia. Quali sono i sensi del disagio che individui più frequenti, e i sensi di confusione soprattutto, rispetto a quali campi? Ma i sensi, sicuramente la sofferenza soggettiva che deriva dalla patologia in sé, e quello è la cosa più comprensibile, e successivamente la difficoltà nel trovare dei referenti affidabili in campo terapeutico che possano comunque contribuire a un miglioramento. Io ricordo che ad oggi in convenzione le uniche terapie sono la logopedia e la psicomotricità. Ebbene, la logopedia e la psicomotricità pagate dallo Stato dato non sono le terapie di prima scelta per l'autismo, perché, come abbiamo detto prima, sono le terapie comportamentali di prima scelta. E allora quello che è un po' la confusione delle famiglie, ma devo dire anche nostra, degli operatori, è quello che ci sono delle linee guida, linea guida 21 dell'Istituto Superiore di Sanità, che si pronuncia in maniera chiara e evidente dopo anni di studi in cui dicono che queste terapie sono la prima scelta. Ebbene, è nata una polemica attorno a queste linee guida, in cui la politica stessa italiana ha messo in discussione le linee guida del suo stesso primo organo. Ti dico con malizia e con mia esperienza quali potrebbero essere i motivi. Primo, esiste un esercito di persone che ormai da anni ha un approccio psicodinamico hanno degli psicologi, degli psicanalisti che si occupano di autistici e dovrebbero riqualificarsi, ricominciare da capo, ristudiare da capo, e questo non se la sentono di farlo. Seconda cosa, c'è una vecchia idea per cui ci siano dei sistemi di comportamento delle madri, soprattutto, che hanno rinnegato la loro funzione materna, che ha determinato la patologia del bambino. Sì, sì, vedi Gianluca, il problema è questo. Noi non vogliamo fare processi a nessuno, né porci dal lato del giustizialismo, cioè non abbiamo la verità in mano. Quello che diciamo è che ci sono delle evidenze scientifiche e dobbiamo basarci sulle evidenze scientifiche, perché sennò ognuno rischia di dire un pochettino quello che vuole in base a delle proprie credenze personali. Le evidenze scientifiche ad oggi, 2013, dicono che le terapie comportamentali sono la prima scelta. E allora la politica, invece di domandarsi se queste linee guida emanate effettivamente corrispondono al vero, dovrebbe preoccuparsi di organizzare dei servizi che soddisfano queste linee guida. Ecco, è successo il contrario, purtroppo. Io, tra le lettere che mi arrivano, ti faccio qualche esempio, vediamo se corrisponde anche nelle perplessità che vengono poste. Psicoanaliste a cui viene sottoposto un bambino autistico che si strappa i capelli, dicono no, lasciaglielo fare, così si scarica la tensione. O altre terapie stranissime di personaggi che non sono nemmeno laureati in medicina, che prendono in osservazione i bambini facendo pagare centinaia di euro alle famiglie, per non arrivare poi a, diciamo, le credenze al limite della superstizione. Bisogna fare delle diete specializzate, perché tutto dipende dai vaccini. Esiste la grande lobby delle farmaceutiche che non ci vuole dire che sono i vaccini fanno diventare i nostri figli autistici, quindi combattiamo contro la lobby delle farmaceutiche, che potrebbe anche esistere, ma in questo caso di scientifico cosa c'è? Ma in questo caso di scientifico, per esempio, sui vaccini si fa un gran parlare, è veramente un enorme campo di dibattito. Di scientifico c'è che dopo il primo articolo del 98 di Andrew Wakefield, che è l'inglese che ha così descritto 12 bambini autistici che avevano questa associazione, sono stati fatti altri studi, tra cui la stessa rivista Lancet l'anno dopo pubblicò uno studio di Taylor del giugno del 99, in cui i bambini erano però 498, e si sconfermava quello che la stessa rivista aveva detto l'anno prima. La stessa rivista ha poi ritirato l'articolo qualche anno fa, per cui, e successivamente altri studi su campioni di popolazioni molto molto ampie, non su 12 bambini. Tra l'altro quello studio di quel medico inglese è su 12 bambini di un range età molto ampio, dai 3 ai 10 anni, per cui metodologicamente molto mal fatto. E purtroppo ancora oggi si fa riferimento a quest'articolo, nonostante ci sono stati numerose evidenze scientifiche che hanno sconfermato a proposito questa associazione. Dottoressa Elena Maestrini, buongiorno. Buongiorno. Docente di genetica all'Università di Bologna, da 15 anni studia l'autismo, è coinvolta nel progetto del genoma dell'autismo, che è un progetto di respiro internazionale. Ci può fare un punto, proprio dal punto di vista della scienza, di ciò che perlomeno allo stato dei fatti, allo stato dei tempi, è accertato rispetto all'autismo e quello che in realtà non ha fondamento scientifico? Dunque, io mi occupo di genetica, quindi diciamo la mia competenza riguarda questo campo. Dunque, quello che ormai è appurato è che i disturbi dello spettro autistico hanno una base genetica. Tuttavia si sa che i fattori genetici che influenzano questi disturbi sono molto complessi, per questo che si è fatto molta fatica e che si sta ancora facendo molta fatica nel cercare di definirli, questi fattori genetici. Tuttavia, diciamo che negli ultimi anni, grazie anche al fatto che la tecnologia sta avanzando veramente la tecnologia per lo studio del genoma sta avanzando a passi molto veloci, si stanno facendo insomma progressi abbastanza velocemente rispetto a quello che avveniva fino a pochi anni fa. Quindi resta il fatto che è una malattia di cui si sa molto poco, ma di quel poco almeno ci sia una base di origine genetica, non è escluso. No, no, è... Anzi, è accertato proprio. Sì. Sì, diciamo che è accertato che diciamo, non, la maggior parte, se non la totalità, dei casi di autismo hanno una base genetica. Tuttavia la base genetica è complessa e quindi per questo è difficile in ciascun singolo caso indicare, identificare qual è esattamente la causa genetica che è responsabile del disturbo. Professore Anna, vuole dire qualcosa rispetto a quello che diceva la genetista? Sì, la base genetica però è talmente complesso individuare il perché, il per come, il per quando, quali sono gli incroci per cui nasce un ragazzo autistico, che è un dato di fatto scientifico ma sul quale poi non si può aggiungere molto. Beh, diciamo che dal punto di vista epidemiologico noi vediamo che un 20% circa di soggetti autistici viene identificata la causa monogenica, e questa causa monogenica li porta fuori dalla statistica, perché quando un bambino ha il comportamento autistico derivato per esempio dall'X fragile, derivato dalla sclerosi tuberosa, se si scopre l'X fragile, se si scopre la sclerosi tuberosa, esce dal gruppo degli autistici e entra nella classificazione internazionale analitica che dice che la sclerosi tuberosa è un'altra cosa. Questo vuol dire che l'autismo è come un carciofo, che ciascuna foglia via via che si identifica va a sfogliare questo carciofo, che si deve pertanto ridurre. Questo 1% di bambini e di soggetti, di persone, perché non sono solo bambini, perché quando lo è lo resta anche, no? Non è che, a parte alcuni miracoli, ecco, per il resto purtroppo resta. Questi casi vengono identificati e via via che si scopre l'eziologia escono. Ma questo non vuol dire che non si debba fare l'educazione, anzi, non so dire che non debbano avere anche loro l'educazione, il trattamento deve necessario. Essere fatta a tutti, anche se hanno la sclerosi tuberosa, anche se hanno l'X fragile, perché l'educazione speciale è utile per tutti questi casi. Importante invece capire da dove viene, e l'Elena Maestrini sicuramente può dirlo, perché poi da lì si può cercare di fare, come è già stato fatto per alcuni, per esempio la sindrome di Rett, scoperto in MECP2, che è il gene che origina questo tipo di disastro, e hanno fatto il topo col gene MECP2 sbagliato appositamente, hanno lavorato sul topo, cioè hanno maltrattato il topo dandogli dei farmaci. Adesso si comincia a utilizzare questo farmaco che è stato sperimentato prima sul topo sulle bambine. Quindi è questa la logica del nostro della ricerca scientifica, non è quella di correre dietro a quelli come Wakefield, che è stato nominato prima, che se volevo aggiungere che è stato cacciato con infamia dall'ordine dei medici della Gran Bretagna. Quindi non stiamo parlando di una persona che deve essere trattata coi guanti, è una persona che è stata cacciata con infamia per aver esercitato sui bambini degli interventi tipo cose che non fanno certo piacere, no? Ecco, perché sono intrusive, no? A questi bambini, poi buttando via o nascondendo i risultati per non essere smentito. Quindi siamo veramente di fronte a dei ciarlatani e dei truffatori. Allora, Elena Maestrini, dottoressa, come vede, prevale l'aspetto emotivo, l'aspetto fantasmagorico, tanto che si sovrappone una teoria portata avanti in maniera ciarlatanesca rispetto a quello che lei scientificamente sta dicendo. Forse perché il dato scientifico permette meno fantasia e meno speranza. Ma esiste una possibilità di mappatura preventiva? Cioè una coppia, poi in qualche maniera... faccio una domanda che sembrerà folle, in qualche maniera fare un test preventivo per vedere ci sono circostanze che potrebbero determinare un figlio autistico? No, al momento di test preventivi o predittivi non sono possibili, perché si conosce ancora abbastanza poco. E poi, come vi dicevo, come stavo dicendo, i geni che sono... Allora, fino a poco tempo fa si conoscevano solamente alcune rarissime cause che erano associate all'autismo, in modo particolare quei casi di autismo cosiddetto sindromico, cioè un autismo non propriamente puro, ma un autismo associato ad altre sindromi genetiche, come nel caso dell'X fragile, della sclerosi tuberosa. Altri problemi che davano come sintomo anche l'autismo. Esatto, esatto. Però invece recentemente si stanno incominciando a scoprire tanti altri geni che sono associati ad un rischio di autismo, se ne conoscono diverse centinaia ormai. E diciamo che è possibile oggigiorno fare un'indagine che possa in qualche modo cercare di identificare la causa genetica nei bambini che sono affetti da autismo. Ecco, fermiamoci solo un secondo, scusi un secondo, perché Antonello, il primo ascoltatore, è un genitore, che poi alla fine noi stiamo facendo discorsi probabilmente a un livello di attendibilità scientifica molto raffinata, poi il quotidiano di un genitore che davanti a un assistente sociale, un rappresentante dell'ASL, un pediatra che molte volte dice ma no, parlerà questo bambino, non ti preoccupare, un operatore che vagamente sa come trattare quel ragazzo. Antonello. Buongiorno Gianluca. Tra l'altro sono un collega anche, ma io, in realtà io mi avete già risposto. Collega in quanto genitore di autistico? No, in quanto giornalista. Sì. E infatti non sono genitore di autistico, ma ho delle realtà vicine che mi interessano molto. Conosci, insomma, sì. Esatto. Mi avete già risposto riguardo alla, a questo punto devo dire, diceria della possibile correlazione con le vaccinazioni. Però devo dire che questa diceria in realtà prende piede in certi ambiti anche abbastanza scientifici, voglio dire, ci sono tanti pediatri magari che insomma in ambito omeopatico che questa cosa la dicono molto. Sì, ma stiamo facendoci una risata. Luigi ecco. Mazzone, Luigi Mazzone. Sì, il fatto che alcuni colleghi sostengono questa associazione non vuol dire sia scientifica in quanto che la sostengono colleghi. La scientificità è data dall'evidenza e rimarco quello che ho detto prima, non c'è, nonostante per carità empatizzo con le famiglie e cerchiamo sempre anche nei nostri ambulatori, nei nostri hospital, perché alla fine ci viviamo tutti i giorni, di così cercare di parlare al meglio, cercare magari si possono fare ulteriori studi oltre a quelli che si stanno facendo, per carità, perché la certezza assoluta poi magari sarebbe anche presunzione averla, per cui è giusto mettersi sempre in gioco. Ad oggi però se alcuni omeopati sostengono il contrario lo dovrebbero dimostrare con fatti, pubblicazioni e non a parole. Anche perché il tempo non gioca a favore, un ragazzo cresce velocemente, quello che può essere fatto precocemente non può più essere fatto quando è grande, e molte volte queste cure non pensiate che siano gratuite, le cure legate agli aspetti, alla nutrizione, alla chelazione, sono cure molto costose. Sì, poi voglio dire, ci sono dei canali ufficiali, i canali ufficiali sono le riviste scientifiche, l'American Journal of Psychiatry, sono delle riviste degli psichiatri americani che non è vero che sono lobbistiche o sostenute dalle case farmaceutiche, sono delle riviste in cui poi ci si vanno a vincere anche premi importanti, che sono delle riviste in cui si passano delle revisioni molto serie per pubblicare, e non è assolutamente vero che le revisioni sono legate a interessi commerciali o economici, sono delle revisioni legate a interessi scientifici, proprio perché i revisori possono essere scelti a caso in tutte le parti del mondo. Un revisore di un articolo può essere preso in Giappone, in Cina o negli Stati Uniti o in Europa, per cui è difficile trovare dei legami. La lobby sarebbe veramente tentacolare a questo punto. È impensabile. Melog, la realtà condivisa. Oggi parliamo di autismo in termini realistici, anche se so che frustreremo molte speranze, molte illusioni di tanti genitori, ma un genitore che vi parla, prima prendiamo conoscenza e coscienza di quello che va fatto, di quel poco tanto può essere fatto, prima facciamo qualcosa di utile per nostro figlio. La prima parte di questa trasmissione abbiamo cercato di sfatare alcune mitologie attorno all'autismo, dando voce a persone qualificate che ci hanno detto che in realtà l'autismo è una sindrome a base genetica come sindrome principale. Poi ci sono altre forme di autismo, che sono autismi derivati, sono dei sintomi di altri tipi di patologie. Il numero degli autistici varia a seconda del punto di vista. Possono essere tantissimi, possono essere meno, possono essere pochi. Non c'è un autismo, c'è un'infinità di autismi. In questa seconda parte della trasmissione vorrei mettere a punto il che fare. Il che fare? Quando ci viene diagnosticato, e già abbiamo fortuna, perché se abbiamo una diagnosi abbiamo fortuna, io ci ho messo 4-5 anni per avere una diagnosi, perché si girava intorno, nello spettro, adesso vediamo, intanto passava tempo, passavano mesi, anni, le madri in fila con il figlio in mano, sperando che gli dicano che in questo spettro si sta al punto più estremo, poi ti ritrovi il bambino che ha accertato che è un autistico. Cosa si può fare a quel punto? Luigi Mazzone, ricercatore del Bambin Gesù, è un psichiatra infantile che si occupa di persona sul campo di autistici. Allora, vediamo due tipi di approccio, con un bambino appena diagnosticato fino all'età dell'adolescenza e dopo l'adolescenza. È un problema perché, ripeto, attualmente il nostro consiglio alle famiglie è quello di attuare dei trattamenti cognitivo-comportamentali. In convenzione non esistono, per cui le famiglie li devono pagare di tasca propria e le terapie riconosciute allo Stato sono, ripeto, logopedia e psicomotricità. Per cui lo Stato, ripeto, spende soldi inutilmente su terapie che non sono scientificamente comprovato la loro utilità per l'autismo. Assolutamente. Si buttano via soldi per terapie che non servono. Esatto. È il motivo per cui la nostra difficoltà è quella di far capire questa prima cosa alle famiglie, per cui, sa signora, lo Stato le riconosce una terapia, però io penso che non sia quella più adatta, e questa è la prima difficoltà che in un setting di hospital, di ambulatorio, ci troviamo tutti ad affrontare. Sono terapie molto costose, la media sono 20 euro all'ora, un operatore ABA specializzato, e bisogna farne tanta. Esattamente. Accanto a queste terapie comportamentali sicuramente ci possono essere degli altri approcci un po' più ludici che comunque possono contribuire a un benessere e a una qualità di vita del bambino, anche se la nostra opinione personale è che non necessariamente se fai tantissima terapia corrisponde a un miglioramento della sintomatologia, anzi spesso è bene non stressare troppo il bambino. Ma qui mi stanno scrivendo l'ippoterapia, la musicoterapia, la terapia dentro l'acqua, tante altre cose. Sono da considerare, secondo me, per la mia esperienza, attività ludiche. È come fare qualcosa per cui tuo figlio è felice. Quando è felice sta meglio, ma non è che guarisca. Sì, sì, ma è il concetto di prima, no? L'evidenza scientifica, per carità, vanno benissimo tutte queste, la terapia a cavallo. Il problema è proprio il concetto di terapia. Io la consiglio pure, cioè è una cosa molto carina. Anche perché la giornata è lunga, Luigi, qualcosa deve fare tuo figlio. Assolutamente, anzi io consiglio queste metodiche alternative. Il problema è comprendere, essere coscienti che queste non sono le terapie che agiscono sul core sintomatologico dell'autismo, danno un benessere soggettivo sulla qualità della vita dei bambini e delle famiglie, agiscono in setting non strutturati, molto belli all'aria aperta, come nel caso dell'ipoterapia, ma non sono le terapie dell'autismo. Non parliamo di terapia, è un'altra cosa. Ecco, quando poi crescono, tu in particolare qui a Roma, anche a Catania, adesso anche a Milano, organizzi dei campus estivi, che è un primo modulo di idea di luogo in cui i ragazzi possono avere una loro dignità e una loro felicità. Non esiste ancora, esistono pochi esempi, li sentiremo, di città felici per ragazzi autistici, per questa è la soluzione, secondo me. Sì, che poi crescendo appunto ci sono la crescita del bambino, del ragazzo, si accompagna veramente a una serie di angosce familiari sul che fare dopo, no? Il primo che fare dopo è il che fare dopo la scuola. A giugno, luglio, agosto spesso sono dei momenti drammatici perché il genitore continua a lavorare e non sa dove portare il figlio, e da qua l'idea di fare dei campus estivi che già sono da qualche anno partiti grazie a un'associazione che si chiama Progetto Aita, con un rapporto di tutoraggio di 1-1 di tutor specializzati, psicologi, possono dare e consentire alle famiglie di portare i ragazzi in centri sportivi dove integrarsi con gli altri ragazzi. Io ricordo, ma lo sa ogni genitore di autistico, quello che per la gente normodotata è un giorno di riposo, di felicità, le feste comandate, i sabati e domeniche, per la famiglia di autistico inizia il martirio, cioè questo ragazzo non sai cosa fargli fare. Maurizio Arduino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e ai suoi ospiti. Allora, il dottor Maurizio Arduino è responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Cuneo, che è una delle situazioni pilota. Lei è riuscito a creare quello che è l'utopia nella mente, nel cuore di ogni genitore di autistico. Ci spiega esattamente quali sono state le difficoltà e in cosa consiste? Ma dunque, noi siamo innanzitutto un servizio pubblico, siamo un servizio che è collocato all'interno di un ospedale pubblico. Il servizio del Centro Autismo si trova esattamente a Mondovì, che è una cittadina della provincia di Cuneo. Noi abbiamo iniziato una quindicina d'anni fa, rendendoci conto di quanto erano inadeguate le risposte che noi davamo ai bambini con autismo in primo luogo, e da lì è nato un interesse per cercare di rendere diciamo il più possibile vicini a quelli che erano le indicazioni della letteratura internazionale la nostra operatività. In parte ci siamo riusciti, in parte abbiamo ancora insomma della strada da fare, ecco. Noi ci occupiamo di bambini che fortunatamente, grazie anche alla sensibilizzazione dei pediatri, arrivano sempre più precocemente negli ultimi 3 anni sono arrivati molti bambini con di 18-24 mesi, alcuni anche più piccoli, e quindi questo consente di attivare degli interventi precoci. Ma cosa fanno? È un posto dove poi i ragazzi possono stare anche in orario scolastico, in orario post scolastico, il pomeriggio. Parlare di una sorta di scuola speciale è proprio una bestemmia in questo momento. Allora no, la nostra esperienza è un'esperienza diversa, nel senso che noi siamo un servizio ambulatoriale, che è quello che abbiamo fatto, che abbiamo cercato di fare sin dall'inizio, è di utilizzare al meglio quelle che erano le risorse disponibili. Per cui, per esempio, per un bambino che non va ancora nella scuola dell'infanzia, quindi per bambini che hanno meno di 3 anni, il riferimento principale non può che essere la sanità, e quindi noi dobbiamo attivare tutti gli interventi riabilitativi possibili in quella fascia d'età, perché quella è una fascia d'età che non è coperta da altre agenzie educative. Quando il bambino entra in scuola materna, se noi abbiamo, e questa cosa è molto, diciamo, difficile, ancora una criticità, ma se noi abbiamo degli insegnanti competenti che hanno una formazione specifica o che comunque vengono indirizzati verso una formazione specifica, il momento della scuola è un momento che può essere di grosso aiuto per il bambino. Altrimenti è un parcheggio, serve, perché così uno non gli rompe la ritualità quotidiana. Continuo a mandare mio figlio a scuola, ma so che a scuola non fa assolutamente nulla, passeggia per un corridoio e poco più. Cosa devo fare? Dove lo mando? Almeno so che con le 4 ore fa qualcosa in cui socializza. Ma, certo. Professor Anau, Carlo Anau, è ipotizzabile l'idea di creare delle strutture imperniate sulla buona volontà delle associazioni, delle famiglie, con la cosa pubblica in qualche maniera supporta, in cui si cominciano a creare dei luoghi speciali per questi ragazzi speciali? O è contro il politicamente corretto? Allora, tanto per cominciare, il bambino, se viene depistato a 2 anni, come appunto dovrebbe essere, bambino grave, no? Non deve andare a scuola, perché la scuola dell'obbligo inizia a 6 anni. Quindi ci sono 4 anni, tantissimi, 4 anni utili per fare con lui, nell'interno della materna, che poi è la scuola dell'infanzia, dove non ci sono programmi, dove non c'è la classe, puoi fare veramente un'opera di educazione speciale e socializzazione, cominciando a prendere 1, 2, 3 bambini di quelli più disponibili, mettendoli insieme a lui. In questo modo non c'è, per fortuna, il programma da seguire nella materna. Sta descrivendo non c'è una scuola speciale. Quindi, mirata per questo tipo. Ma non è una scuola speciale, perché la scuola speciale nella vecchia tradizione era una scuola dove andavano tutti i bambini ciechi, tutti i bambini autistici. No, con un respiro maggiore, tutti i bambini. Con degli insegnanti con uno skill professionale più alto rispetto alla media. Sì, ma appunto, cioè, noi abbiamo ipotizzato la scuola Polo e la rete di scuole proprio per questo, e addirittura questo fa parte dell'accordo Stato-Regione di Fioroni, che è l'accordo che precede questo ultimo del novembre del 2012, che impone alle regioni, agli enti locali, allo Stato, nella figura del Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, di fare delle cose per questi bambini. Ma io conosco solo genitori col macete tra i denti che ricorrono al TAR quando non possono proprio avere altre soluzioni, perché ti dicono: non ci sono gli insegnanti, non ci sono le C, non sappiamo, non possiamo, non vogliamo. Le persone che noi a spese nostre potremmo far seguire nostro figlio anche in orario scolastico, molte volte non vengono accettate alle scuole, perché è personale strano alla scuola e interferisce su quello che è l'iter scolastico, che non serve a nulla ai nostri figli. Melog, la realtà condivisa. Stiamo toccando forse la parte più difficile, quella come affrontare il quotidiano. Stava elencando il professor Carlo Anau quello che va fatto nella scuola materna, infantile, nella scuola dell'obbligo, per darsi a fare, ma il problema cresce. Luigi Mazzone, ricercatore del Bambin Gesù e neuropsichiatra infantile, quando termina la scuola dell'obbligo, onestamente, sinceramente, che tipo di attenzione ha un soggetto autistico rispetto alla cosa pubblica? Molto scarsa, anche perché prima della trasmissione si discuteva e parlavamo di autismo infantile. Io ti ho detto appunto che non mi piace il termine di infantile, perché sembra come se poi si guarisce. Per cui parliamo di autismo, come non il infantile, morbido, capito? Esatto. Sia solo da piccoli, poi passa. Esattamente. Per cui grazie al cielo un pizzichino si sta iniziando a parlare di autismo in età adulta, anche se non abbastanza, assolutamente in modo superficiale. Molti anche molte persone adulte non diagnosticate che stanno in comunità, che stanno in centri di recupero, sono autistici e che non hanno avuto la diagnosi molti anni prima. L'autistico dopo i 18 anni ha un'attenzione assolutamente scarsa, bisognerebbe fare qualcosa per l'autistico nell'adulto. È come se poi alla fine il grande interesse mediatico anche si sta creando, è come se riguardasse i bambini dai 3 ai 10-12 anni. Perché sono batuffolotti che fanno tenerezza. A 20 anni, uno con i barba e baffi, col vocione, anche se non parla. Io penso che dovrebbe essere forse, non dico il contrario, ma quantomeno avere una continuità di attenzione, perché poi i genitori invecchiano, hanno ancora più bisogno i genitori stessi, i ragazzi diventano grandi, ed è là dove lo Stato deve intervenire in maniera veramente sostanziale. Ti dico, non ce la faccio più fisicamente a gestire mio figlio, e c'ha 15 anni. Poi io dico, ci vogliono due cose sostanzialmente per iniziare. La prima cosa è che la politica si renda conto che servono in convenzione le terapie comportamentali e non la logopedia e la psicomotricità. E questo è un dato concreto che bisogna fare subito. Già sarebbe un passo avanti. Per i piccoli almeno sarebbe un bel problema risolto. Sui piccoli e sui grandi iniziare a creare delle strutture ad hoc per l'età adulta, dopo i 18 anni. Queste sono le due cose che bisogna fare subito. Sento due operatrici, molto velocemente, abbiamo pochissimo tempo, vi chiedo una grande sintesi. Cosa secondo voi deve fare un genitore concretamente di fronte al problema che a un certo punto di suo figlio non se ne occupa nessuno, se ne occupa nelle maniere non sufficienti a garantirgli comunque una giornata serena? Parlo di giornate, non parlo di speranze di vita che vadano oltre. Una giornata serena in cui lui possa avere la sua dignità di genitore, quindi lavorare, occuparsi anche di altri figli se ci sono, ma sapere che suo figlio non è abbandonato in un angolo. Dottoressa Daniela Mariati Cerati, che è coordinatrice del comitato scientifico dell'AMSA, esperta farmacologa, si occupa volontariamente di autismo da 30 anni, gestisce anche due forum sull'autismo. Concretamente, cosa si può fare? Beh, innanzitutto l'educazione, la terapia che coincide con l'educazione dovrebbe cominciare con la diagnosi e non finire mai. E la mia idea, che è condivisa da tanti, è che non debbano esserci dei luoghi per l'autismo, ma ci debba essere un incontro tra il ragazzo e il suo ambiente. Ad esempio, qui a Bologna abbiamo fatto due inserimenti lavorativi iniziati con un educatore specializzato che ha curato l'inserimento e che adesso stanno andando avanti da soli, precisamente in una cucina di un ospedale e in una biblioteca universitaria. È chiaro che non è che sia andato là ed è stato assunto, no, c'è stato per un lungo tempo un educatore che sarebbe un po' il corrispondente dell'insegnante di sostegno per la vita adulta, e poi poco a poco l'educatore si è allontanato, educando però i colleghi ad accettare, ad aiutare, però insegnando anche al ragazzo a fare delle cose vere. E questi due inserimenti che vorremmo che fossero seguiti da tanti altri stanno andando avanti bene. Ecco, quindi questa è una modalità. Naturalmente non dico che tutti, naturalmente nell'equipe che segue non bisogna neanche demonizzare i farmaci, anche se naturalmente adesso abbiamo dei farmaci che agiscono in un modo molto marginale, che vanno monitorati perché non sempre funzionano alla diritta, a volte hanno l'effetto paradosso, ma nel complesso dell'intervento anche un farmaco dato bene e dato da persone esperte, cioè che sia un neuropsichiatra a darlo e non sia un laureato in lettere e filosofia come accade spesso in Italia, sono cose che noi sappiamo. Professor Carlo Anao, però vorrei entrare un pochino più nello specifico. Ha detto la dottoressa Mariani Cerati una cosa molto giusta: inserimento lavorativo. Io conosco decine se non centinaia di madri, più madri che padri, ma anche padri, che hanno dei giganti o delle gigantesse per casa e non sanno come far passare loro la giornata. Ci può essere una soluzione? Eh beh, certo, la soluzione c'è. Intanto i genitori non possiamo aiutarli in tutto e dire loro tutto in una trasmissione. Devono abituarsi i genitori ad associarsi, cioè mettersi in associazioni, possibilmente associazioni serie, tipo quelle nazionali che aderiscono a Fantasia, che sono ANGS, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, Gruppo Asperger per gli Asperger, che sono i più leggeri dei nostri casi, e l'altro Autismo Italia. E queste associazioni sono in grado di dar loro quell'aiuto che noi per radio adesso non possiamo certo dare. Quindi le associazioni in qualche maniera si rimbocchino le maniche, sì, e vadano a chiedere all'istituzione luoghi, strutture almeno, o conversione di professionalità che non servono in denaro da attribuire alle persone che abbiano una qualificazione professionale. Certo, certo, perché altrimenti se no vanno a finire nelle associazioni che fanno da corona dei ciarlatani e diventano essi stessi l'esca per altri genitori, raccontando loro delle balle, per essere molto concreti. Ecco, quindi prima cosa, entrare in un'associazione seria a livello nazionale, ho detto queste tre, e sono le tre nazionali che fanno oggi al Bambin Gesù l'incontro maggiore. Sì, oggi c'è uno degli incontri più importanti la giornata, sì, che si fa al Bambin, sì, Gesù, magari se riusciamo a collegarci non lo so, però può dirci qualcosa, forse Mazzone, su quello che accade oggi al Bambin Gesù? Sì, oggi c'è una giornata scientifica, e non solo scientifica, in cui si parla di autismo, all'auditorium di San Paolo del Bambin Gesù, in cui si fa il punto della situazione, in cui, coinvolgendo anche dei rappresentanti delle istituzioni, si cerca di interagire, cercando di capire se ci possono essere passi avanti rispetto anche alle convenzioni che abbiamo visto. Visto che si parla del miracolo dello streaming in tante occasioni, posso dirvi che sul sito www.fantasiautismo.org a tempo reale possono seguire i lavori di questa organizzazione. Elena Clow, buongiorno. Molto velocemente chiedo anche ai sintesi. Lei è un'analista del comportamento, presiede un'associazione Pane e Cioccolata, che sono principalmente analisi del comportamento applicate ai disturbi dello spettro autistico. È tanto difficile formare degli operatori adeguati per questa patologia? Non si creerebbero dei posti di lavoro qualificati? Io vedo con dolore molte volte persone che basterebbe che studiassero per avere un lavoro adeguato, invece no, si accontentano di essere collocate in prossimità di soggetti autistici e dicono me ne devo occupare, vedi un po' tu cosa posso fare. Sì, è difficile formare persone che abbiano una qualifica d'eccellenza, ma è possibile, ed è possibile. Cioè, è difficile perché bisogna studiare, questo è il problema, perché non è che non ci sono gli strumenti. Bisogna studiare, bisogna avere pratica, perché come avete detto all'inizio non esiste un autismo, ma tante tipologie, ogni ragazzo, ogni bambino è un caso che va seguito, il programma deve essere molto individualizzato e quindi non esistono ricette facili né scorciatoie per questo tipo di formazione. Sentiamo Serena, un'ascoltatrice, una madre, penso, di bambino autistico. Serena. Buongiorno Gianluca, sono felicissima di conoscerti, ho letto il tuo libro in 3 giorni e vedo le aree in realtà. Francesco ha 5 anni e mezzo, abbiamo scoperto a 1 anno e 8 mesi che era autistico grazie al fratello, perché parlava come un avvocato. Francesco non si girava, non parlava, e subito a 2 anni abbiamo iniziato a fare i controlli e con la neuropsichiatria stiamo facendo un bellissimo percorso tra psicologi, neuropsichiatri, educatrici, psicomotricisti, e abbiamo iniziato la logopedia. Francesco ora sta dicendo le prime vocali, purtroppo il controllo sfinterio non c'è e sta andando all'asilo. La sua capacità cognitiva purtroppo è un po' indietro, per cui l'anno prossimo non potrà andare alla scuola primaria e farà un altro anno di asilo. Posso fare una domanda, Serena? Come vedi la tua vita vicino a tuo figlio da qui a 10 anni? Quando ho letto il tuo libro, quando ho letto il finale, l'ho letto 4 volte, mi sono messa a piangere. Adesso non sembra, no, questo è un Dio, te lo dico. Quando mi hai detto del semaforo, non prevedevo questa citazione, sennò sembra che mi faccio l'automarchetta, quindi evita di parlare delle cose mie. Ti aspetti che comunque il problema cambierà, muterà, dovrai occupartene sempre più te e avrai meno risposte pubbliche rispetto alle esigenze di tuo figlio. Bravo, è vero. Perché ti trovi spesso a avere delle porte in traccia e combattere sempre di più per dire la vera realtà dell'handicap. Ecco. Hai contatti con altri genitori, altre famiglie, associazioni? Aspetta, c'è proprio Francesco che mi sta facendo vedere una cosa. Pappa, bravo, i bastoncini, scusa. Scusa, niente, è il quotidiano, sto preparando da mangiare al figlio, è un figlio di 5 anni. No, ti spiego, perché in questo momento c'è un po' una fissa con il didò e vuole che gli scriva le parole in modo tale che lui riesca a vocalizzare qualche vocale. Benvenuta nel mondo delle fisse, ne troverai ben altro, dovrai gestirne ben altro, ti faccio migliori auguri. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio e faccio migliori auguri a tutti i miei colleghi. A domani.